25 dicembre, Natale, per noi è anti-Christmas, illegal rave, anti-Christmas, illegal rave a 2 anni, dal primo illegale a Roma, 2 anni di azione di disturbo urbano, anti-Christmas rave. Hard Raptus, in diretta da Radio Onda Rossa come tutti i sabati, 93.3, 93.4 e 50, 87.9, la nuova frequenza occupata illegalmente da Radio Onda Rossa. Nuova frequenza allora, 87.9. Fate attenzione, 87.9 in tutta Roma. E chiunque all'ascolto può provare a sintonizzarsi sulla nuova frequenza e chiamare qui in radio per eventuali problemi di ricezione. 491750 il nostro contatto telefonico. E allora Hard Raptus ribadisce la solidarietà col centro sociale Leoncavallo e saluta tutti i compagni che sono intervenuti alla manifestazione di oggi. 20.000 persone hanno risposto così all'aggressione vile delle forze dell'ordine. Questo è quello che fanno le guardie in Italia. Aggressioni vili ai danni. Dei giovani, dei disoccupati, dei lavoratori. Di chiunque, come abbiamo visto qui a Roma, prova a organizzarsi da solo le proprie feste. Ma noi rispondiamo che i rave illegali non si fermeranno. Illegal rave col qualunque mezzo. Hard Raptus, Radio Onda Rossa, la nuova frequenza inauguriamo oggi con Hard Raptus, 87.9, fate attenzione su tutta Roma, 87.9 MHz in FM. Hard Raptus. Allora, per tutti gli ascoltatori, provate a sintonizzarvi sugli 87.9 e chiamate qui in radio. 49 17 50 il nostro contatto telefonico. tracce autoprodotte tra poco su Ardrappus 93.3, 93.4.50 della modulazione di frequenza. Ardrappus, autoproduzione. Ardrappus autoproduce. Tra qualche istante in esclusiva ad Ardrappus, autoproduzioni romane.